dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! E come ogni mercoledì dalle 18.30 alle 20.30 è l'Onda in Onda a tenervi compagnia durante l'orario dell'aperitivo. Oggi puntata speciale, con me non inizia Antonio ma arriverà fra pochi minuti perché come al solito è in ritardo, sarà rimasto bloccato nel traffico insieme alle tutte le persone che fanno i regali prenatalizi, ma è tanto inutile perché fra pochi giorni finisce il mondo, no? Dopodomani finisce il mondo, quindi è inutile spendere soldi, regalate pacchi vuoti, al massimo ci scrivete dentro. Pensavo che i Maya avessero ragione. Dietro di me, dall'altra parte, dietro di me, davanti a me, dall'altra parte del vetro c'è Claudio, non c'è Alessandro oggi che purtroppo era bloccato all'università con un esame. Ciao Claudio, come stai? Buonasera. Dietro, cioè dietro il vetro ma davanti me. Come stai? Come questa esperienza con l'onda in onda? Non puoi parlare perché, vabbè, ho capito, tu sei un regista con le contro cosiddette, quindi non parli al microfono mentre parla allo speaker. Va bene, allora diamo subito i contatti per chi vuole mettersi in diretta con noi. Radiopanorama.info o.eu per vedere la puntata in streaming e ascoltarlo ovviamente in streaming. E poi se avete uno smartphone, l'applicazione TuneIn, cercate Radio Panorama. SMS invece al 380 76 90 204, ricordiamolo, 380 76 90 204 per chi vuole intervenire in diretta, 091 888 5182, e poi ovviamente la nostra pagina facebook.com/londa in onda per chi preferisce, scusate, seguirci su twitter.com/onda in onda invece senza la L, oppure commentare la puntata con l'hashtag onda in onda, ci troverete lì ad ascoltare le vostre richieste, le vostre offese a tutti noi. Ma questo programma non può iniziare se non con la nostra sigla. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clap, iodo, cerchiamo, se va, chiamare. 1, 2, 3, 4. Noi siamo i giovani. Ed eccoci tornati subito in diretta con l'Onda in Onda, sempre agli studi di Radio Panorama. Per chi si fosse perso la nostra anteprima, ridiamo subito i contatti: facebook.com/londainonda, radiopanorama.info o.eu per seguire la puntata in streaming audio e video, e poi ovviamente il nostro profilo twitter.com/ondainonda o l'hashtag Onda in Onda se volete commentare la puntata insieme a noi. 380 76 90 204 per gli sms e per le chiamate in diretta, 091 888 5182, numeri che daremo spesso nel corso della nostra trasmissione. Bene, oggi chi abbiamo invece con noi ospiti? Sicuramente due artisti. Dimmi, caro ti regista. Senti, finalmente. Ti sento. Oh, ci sono anche io. C'è anche Claudio. Claudio sostituisce, chi non lo sapesse e per chi si fosse messo in contatto solo adesso, il mio regista di sempre, che è Alessandro, che è oggi bloccato per un esame causa un grande esame. Piacere essere qui ad inondare con le tue squallido. Con le tue positive vibration, diciamo. Ci proviamo, ma non so se ci riuscirò, è un tentativo. Domani ultima puntata del mondo. Perché vediamo. Tu andrai in diretta giovedì, proprio nell'orario della fine del mondo. Quasi. Una mezz'oretta prima. Poi te ne vai e giustamente fai quello che devi fare. Allora, chi avremo con noi in intervista? Due artisti sicuramente molto importanti. Avremo con noi gli Arturo Contromano e poi una band che sta facendo un successo enorme in Inghilterra, che sono appunto i Sunday Recovery. Se non li conoscete, vi consiglio di andarli ad ascoltare e a vedere. E come sentite invece da come sentite, l'uomo che disturba le vostre orecchie è Antonio, che è appena arrivato e si sta mettendo comodo. Non poteva aspettare lui di fare... No. No, non potevi aspettare niente. Sei entrato, mi non ti sei neanche... tempo l'uomo Antonio. Collegato alla cuffia. Ma è diventato castano Montemagno. Sì, Montemagno è diventato castano. Sì, sì, anche un po' più basso sembra. O sbaglio? Un pochino. Però cioè, fa sempre la sua figura. Devo dire che anche in castano sta bene. Ciao Claudio. Buonasera. Che bello, sono solo di Santana su questa versione. Scusa, scusa. Qui. Oh, la, la, la, la. Ragazzi, questo è porco, porco, porco rock and roll. Ci voleva il porco rock and roll per salutarci. Ciao Andrea, io ti Ciao voglio Antonio, bene. Ti ho comprato il regalo di Natale. Addirittura, ma avevo avvertito tutti quanti di non comprarlo. Appunto, io ho perso tempo perché appena tu hai detto non compratelo, io solo per uscire dal negozio. Sì, sì, sì, no, sono entrato in caso. Sei entrato nel negozio? Certo. È il negozio che non vende nulla. Io ascoltavo in radio le tue parole sui regali di Natale, i Maya, ho subito messo il freno a mano e sono entrato a comprarti un regalo di Natale. E cosa mi hai comprato? Se te lo dico che regalo è, che sorpresa. Non posso aprirlo prima assolutamente della fine. No. Ma come? Ma è una casomai domani a mezzanotte te lo darò, mezzanotte meno un minuto. Ma come? Ma senti, perché? Ma ci spariamo il primo pezzo o continuiamo a dire cazzate in libertà? Ma sì, sì, spariamoci il primo pezzo. E sono i Wolf Mother con Joker and the Thief. Ed eccoci sempre qui con l'Onda in Onda su Radio Panorama. Abbiamo ascoltato i Wolf Mother, o come hai detto tu l'altra volta, Andrea? Non Wolf, so se... Wolf. Hai detto, ci ascoltiamo ovviamente i Wolf Mother. I Wolf Mother. Mi sono mangiato la lingua da solo. Assolutamente, sono le 18.47, o per chi è in replica, mezzanotte e 17 minuti. E oggi è il penultimo giorno del mondo. Perché sì, poi sì, si sa questa cosa dell'orario, perché molti stanno dibattendo sull'ora in cui finirà. Se è un orario comune o se ognuno avrà la propria ora, come dire. Ma non lo so, cioè, c'è l'effetto, presumo magari che dalla mezzanotte comincia a distruggersi, no? E comincia dall'Australia o dall'America? In che senso andrà? Perché è un po' come un loading, no? Va riempendosi. Secondo me è come gli spicchi di una mela, no? Tagli, poi ti rimangono questi due, li apri come se li aprissi con le mani. Dici, no? Sì. Potrebbe essere quello. È un bel paragone. Però è bella, immagino sta mela da spicchiare, sì. Che poi mi fa pensare sempre a Tony, sì, scopellito, sì, sì, sì. Ma l'avremo più tardi. L'avremo. È l'ultima volta, tra l'altro, probabilmente, sì, se finisce, sì, il mondo. Probabilmente deve parlarci del suo libro. Ah sì, le tre C di Tony. Poi la terza l'ho scoperto ovviamente riascoltando la replica. E quelli sono le tre C di Tony. Credo che siano di Tony? Di Tony. Di Tony. La dico con la mia voce o provo a imitare? No, con la mia voce. Imitare, no, perché mai. Poi si arrabbia. Allora, le tre C credo siano cultura, calabrese, cucina. Ah, hai visto che c'era, c'era la cultura, la cultura. Vedo che davanti c'è una foto culturale mentre stiamo parlando. Sì, sì, sì. No, e io perché vorrei dare la prima notizia culturale di questa puntata. Ma come oggi abbiamo classifiche oppure... Oggi abbiamo una classifica, l'annunceremo più avanti. Ah, non l'hai annunciata ancora? Ancora no. Allora ti prendi del tempo. Sì, prendo del tempo perché bisogna prima farle ricordare, sudare, sì. Sì, ricordare che con noi saranno ospiti in intervista telefonica gli Arturo Contromano e i Sound Recovery, che stanno facendo veramente un grande successo in Inghilterra. Scusa, i secondi come si chiamano? Sound Recovery. I love you when you speak in English, yeah. Man. E quindi, siccome il programma è molto culturale, noi abbiamo parlato sempre, ogni puntata. Hai già imparato. Vedi, Claudio? Vedi, il pubblico comincia. Ma piuttosto facciamo sentire un attimo gli applausi del pubblico presente in studio. Scusa, poi come chiama? Ragazzi, oggi sono veramente salutiamo, in tanti. Salutiamo, ciao. Anche Fabio nel Music in Love e Luana. Fabio la sua e Luana di Music in Love. Ciao ragazzi, ciao. Prendere i vestiti qui prima della fine del noi mondo. Noi speravamo volessero ascoltarci, invece vanno via. Ciao. Ci ricorderemo di voi. No, siccome appunto dicevo il programma è molto culturale, noi abbiamo parlato sempre di sesso. Certo. Oggi voglio dare una notizia diversa. Una notizia. La vuoi dare tu ovviamente. Sì, sì, una notizia che riguarda la compagnia di assicurazione. Finalmente quindi è diversa. Sì, attenzione, sì. Quindi per la prima volta Andrea lancia una notizia che non riguarda la sfera sessuale. No, riguarda le compagnie di assicurazione. Andrea, e io voglio dire proprio il titolo. Quando dipendente pubblica si infortuna facendo sesso durante una trasferta. Risarcita. Cioè, anche la chitarra impazzisce. Sì, non parlava niente di sesso. Ovviamente, perché qui si parla invece di compagnie assicurative, sì, che rimborsano. Infatti, quindi leggici la notizia, niente. Andrea. È giusto risarcire un dipendente che durante una trasferta di lavoro si infortuna facendo sesso? La risposta la danno al termine di un processo durato 5 anni. Alla faccia, poi si lamentano della giustizia italiana. Mica gotica. E i giudici federali australiani. Ed è l'ultima, perché domani non ne daranno più. Diciamo Satanno. Australiane, sì. Sai come canguri. Dice sì, la vittima è una dipendente pubblica che in viaggio per lavoro ha subito un trauma fisico mentre trascorreva una notte d'amore in un hotel. No, perché volevo dire motel, ma in realtà in non importa se faceva sesso o giocava a carte, dicono i giudici. Perché ovviamente c'è lo stesso probabilità di farsi del male. Si vede che loro sono con la carta, no? Se tu ti fiddi, come si dice in Sicilia, tu pensa che ci sta ascoltando qualcuno che per caso un italiano migrato a Parigi che sa di Radio Panorama. E tu dici, ma fiddi cosa significa in siciliano? Ti tagli, no? Di striscio. Sai quando c'è quei fogli molto taglienti, esatto. No? Se la carta è troppo tagliente Ti fai male. Puoi anche morire dissanguato, no? Vabbè, conoscendo i tuoi tempi di coagulazione, credo di il tempo di protrombina. Dicono i giudici che era fuori per lavoro e va risarcita. La Corte Federale di Sydney, in seduta plenaria, ha respinto l'appello della società di assicurazione infortuni sul lavoro, secondo cui le attività sessuali della donna in un motel non avevano niente a che fare con il suo lavoro. La Corte ha invece stabilito che comunque la donna trascorresse le serate si trova lì per che trascorresse le serate che si trova lì per lavoro. Addirittura arriva anche dalla curva nord. La causa che ha già coinvolto i traghetti di appello potrà avere ripercussioni significative per i datori di lavoro. Ma non è che se corri non sbagli. Cioè devi dirlo. No, ma era l'enfasi. A una velocità interessante, però senza sbagliare. Volevo dare un'enfasi. Capisco che ti si chiede troppo un'enfasi, compa. Guarda, poiché chiarifica i limiti della loro responsabilità verso i dipendenti. La donna, il cui nome non è stato divulgato, lavorava per un'agenzia del governo federale ed era stata mandata in missione a un ufficio regionale nel novembre del 2007. Il datore di lavoro l'aveva aveva prenotato un motel. Hai visto che era motel? Sì, motel. Poco fa era un hotel. Dove lei aveva invitato, vabbè, a cena un amico dopo il lavoro. I due erano saliti nella sua stanza. E nella sua stanza. Esatto. Mentre facevano sesso, un portalampada di vetro si è staccato dal muro e ha colpito in faccia la donna. Che è rimasta ferita al naso e alla bocca. E dal tragicomico. In seguito ha sofferto di depressione e ansia che l'hanno resa inabile al lavoro. Io non ho veramente parole. Portalampada, tutta questa. Vabbè, insomma, depressione. Abbiamo capito la notizia. La fonte è TGcom 24, tra l'altro. Quindi è abbastanza attendibile. E finalmente non si è parlato di sesso. No. Questa invece è interessante. Questa riguarda un po' più l'area medica. C'è una ragazza che scrive in due lingue diverse contemporaneamente, una per ogni mano. Sì. C'è anche il video, andatevela a cercare. Cioè, voi pensate, Claudio, pensa, esiste uno come Andrea che non riesce a leggere una sola lingua. Questa ragazza ne scrive due diverse in contemporanea con due mani. Cioè, io vorrei ben dire che o la ragazza è un genio o tu sei un pirla totale. Io con due mani riesco a fare un sacco di cose. Tengo il mouse e l'altra. Ho avuto. No, vabbè, ragazzi. Ma sono le 18:50. E l'altra nella tastiera. Ma noi non andiamo direttamente in onda alle 00:23. Non puoi dire certe cose così. Ma ci andremo in onda in replica, ricordiamolo, perché è come ogni mercoledì, dopo questa puntata c'è la replica. La replica dell'onda. E ricordiamo sempre, come due pirla, che chi invece ci ascolta in replica noi è già nel futuro. Noi siamo già nel futuro con lui. E lui invece è nel passato. Cioè, noi in questo momento pensa che stiamo vivendo anche a 00:23. È vero. Qualcuno dirà: "E sti cazzi". E noi a questo qui, ricordandogli che stanno arrivando i Maya, gli dedichiamo un pezzo che vi farà ricordare appunto che il mondo è alla fine. I Rem con It's the End of the World. Wait, birds and snakes and airplane, and Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world, serves its own needs, dummy, serve your own needs, feed it up an ox, speed, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high wire in a fire, representing seven games in a government for hire at a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team, my team, reporters, slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and foot burning, blood letting, every motive escalate, automotive incinerate. Light a candle, light a motive, step down, watch a heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Mr. Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, butt, nap, right? Ed eccoci qui, It's the End of the World as We Know It, che poi fu rifatta anche dallo zio Luciano, che prese i diritti e fece a che ora la fine del mondo. Sì, tra l'altro riprendendo la frase che si presume abbia detto un radioascoltatore, quindi parlando di radio, a Orson Welles, che un giorno decise in radio grandissimo di, praticamente di romanzare, no? Di sì. fare il radio racconto del romanzo La guerra dei mondi. Esatto. Tra l'altro con gli inviati, i presunti inviati nei luoghi, con i suoni degli alieni, la televisione, le radio impazzirono e i cittadini, soprattutto americani, impazzirono credendo che si trattasse di una vera e propria invasione aliena. E a quanto pare si racconta che abbia chiamato un radioascoltatore alla stazione radio e abbia chiedendo detto proprio a che ora è la fine del mondo. A che ora è la fine del mondo? Perché mi preparo e da lì l'idea del... Noi non sappiamo a che ora è la fine del mondo, quindi abbiamo... Però intanto ce la siamo ascoltati, così non possiamo dire di essere arrivati in preparati. Abbiamo ascoltato quella dei Rem, però vabbè, ok. Vabbè, ok, un omaggio anche sì, a Ligabue. Un omaggio anche allo zio. Lanciamo la nostra classifica. Assolutamente. E poi una notizia. La nostra classifica oggi verterà... Ricordiamo sui... che sinora abbiamo fatto due grandi classifiche. La prima... Tre grandi classifiche. Tre grandi classifiche. Quella dei lavori più schifosi e strani del mondo. Sì. Quella del... L'uomo col mestro. L'uomo col mestro come parla, insomma, le dieci frasi più dette all'uomo col mestro. E quella su quello che ti chiedono quando hai un tatuaggio. E oggi faremo una classifica un po' strana. I 10 oggetti inanimati con cui intratteniamo conversazioni. Questo è interessante, un po' come quando, sì. che ne so, io non l'ho ancora vista la classifica, noi la scopriremo in diretta con voi, però mettiamo un po', che ne so, sei lì che vedi una foglia che sta, no, non ti staccare, no, e intanto la foglia si stacca e va per i cazzi suoi, esatto. In autunno ad esempio. Ad esempio, ricordiamo intanto che le classifiche che noi prendiamo sono prese da le10.net, un bellissimo sito che noi fa scompiacere delle risate, quindi lo consigliamo. Omaggio ai creatori di le10.net. le10.net. Sì, sì, vi consiglio di mettere tanti mi piace perché il sito merita molto e c'è gente dietro che insomma veramente lavora, strana, lavora sì, su queste strana toccate. Lavora, sì. E al decimo posto di questa classifica abbiamo un oggetto che cade. Non cadere, non cadere, non cadere! E lui cade lo stesso. Ho sempre ammirato l'anarchia degli oggetti. È vero, quando vedi rotolare una penna, sai, i banchi inclinati. Magari non lo dici, ma intrattiene una conversazione sì, mentale. Sì, no, a volte lo dico a voce. Perché c'è Carlo Conte? Perché? La televisione durante i quiz. Al nono posto abbiamo la televisione durante i quiz. Con Carlo Conti? Con Gerry Scotti? No, noi parliamo con la TV o al massimo con qualcuno più in alto. Mike Buongiorno, la nostra migliore amica, e gli diamo le risposte. Passaparola. Tra l'altro tu sei stato alla... No, a Passaparola. Stato, Passaparola. Sei stato alla... Che cosa? Come si chiama? Non lo so, lo devi dire tu. Mannaggia, dai, dove è proprio... c'è la ghigliottina? E quindi? La ghigliottina? La ghigliottina. No. No. Come si chiama? Dai, quando tuo nonno è morto. L'eredità. Ecco, vedi, però ho detto tuo nonno è morto. Lui non mi ha lasciato una lira. E quindi non c'è stata l'eredità. Non c'è stata. Però hai collegato lo stesso tuo nonno a un'eventuale eredità. Sì, io ho giocato 5 anni or sono all'eredità. Il Decuius. Ero il un Decuius. Bimbo sbarbato, un bravo ragazzo. Un bimbo sbarbato, sì. Sono bimbi con la barba. A me sì. A volte. Deve succedere. Vediamo, sì. Passiamo una notizia e poi continuiamo nel corso della nostra puntata con la classifica dei 10 oggetti inanimati con cui intratteniamo conversazioni. Sì, non so se tu, a proposito, siamo sempre un po' sulle classifiche come ambito. L'anno scorso su Twitter, tu che sei un grande Twitter twitteromane, non so come sì. definirti, uno che ha 2300 amici. Attenzione, vediamo, c'è arrivato un messaggio. Attenzione, e noi lo leggiamo. La fine del mondo è giorno 21 a mezzanotte. In punto, sì, ma di che fuso orario? Appunto, cioè poi da dove ci scrivi? Che ci stiamo domandando. Da dove ci scrivi? Chi sei? Cioè, dici almeno il nome. Scusate, non so. Io intervengo a questo punto perché mi sembra ovvio. Cioè, i Maya erano talmente tanto avanti, volete che non capivano l'orario di Greenwich. Si capisce? Cioè. Quindi tu pensi che finirà a mezzanotte, ora di Greenwich, quindi quando qui è l'una? Eh sì. Porca miseria. E quindi hai sbagliato, caro amico che hai scritto. Non sì, è mezzanotte. Amico, amica, non si è presentata. Amico, dici chi sei, insomma. Dici chi sei. Noi ripetiamo anzi il numero di SMS. Sì, infatti 380 76 90 204. Ah, però mi sa che la notizia di cui ti volevo parlare la daremo dopo, perché adesso è tempo di pubblicità. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Some other guys you knew before. You do all those guys you know I love you more. eccoci qua, tornati sempre in diretta, sempre su Radio Panorama, sulle frequenze dell'Onda in Onda da Termini Imerese. Come stai, Andrea? Passata bene la pubblicità? Benissimo. Bene, è sempre bello. È sempre bello chiederti come stai, anche dopo 10 minuti. Allora, salutiamo Stefania che ci sta ascoltando da Palermo, però adesso deve scendere. Non so cosa di fare da meglio, cioè di meglio piuttosto che ascoltare noi, cioè vorrei capire. Comunque ti salutiamo e grazie per essere stata finora con noi. Salutiamo anche Katia e vorremmo ancora sapere chi ci ha scritto prima, anzi controlla se ci hanno risposto, la ragazza che parlava dei Maya. No, ancora nessuna ha risposto. Nessuna risposta, però ci sono anche altre notizie a proposito. Qualcuno dice che in verità i Maya dicono che la fine del mondo sarà l'una in punto di notte, tra il 20 e il 21, anche se si sta diffondendo la voce che sia alle 11 del mattino. Quindi ci sono tanti pareri. Ma mi sa che è il momento dell'intervista, giusto? Mi confermi che sono in linea? E allora salutiamo chi c'è in linea. In diretta c'è Paolo per gli Arturo Contromano. Ciao Paolo! Ciao ragazzi, ciao a tutti. Come stai, carissimo? Tutto bene. Soffre freddo qui, ma sopravviviamo. Quanti gradi? Oggi siamo intorno ai meno 2, dai. Ah, benissimo. Aspetta, esattamente da dove ci stai rispondendo? Da Torino. Lì sì che fa veramente freddo. Qui noi appena ci sono 9 gradi già ci sembra chissà che, e invece no. L'altro giorno ce n'erano 18. Ce n'erano 18 l'altro giorno, è vero, mi ricorda il mio collega. È roba... Sono un po' invidioso. Lo capiamo. Senti un po', siamo qui per parlare del disco che si chiama Quello che ci resta. Ma che cos'è che ci resta? Dici un po' cosa ci resta, così. Ma diciamo che abbiamo voluto... sintetizzare quello che abbiamo passato in questi anni attraverso le nostre esperienze, come abbiamo visto il mondo, come lo sentiamo, cercando di dire le cose nella maniera più onesta e trasparente possibile. E quello che ci resta è proprio il sunto di tutte, diciamo, i nostri pensieri. Grande. Ma senti una cosa, voi siete una band indipendente, quindi sono comunque dei traguardi quelli grossi, arrivare a pubblicare il terzo disco, siete credo a 12 o 13 anni di attività, correggimi se sbaglio. Dovremmo fare 14 l'anno prossimo. Ah vabbè, dai, stiamo arrivando, ho sbagliato di poco. Ma non ce la farete, domani è finito tutto. Domani è l'ultimo giorno. Sì, quindi, allora vabbè, abbiamo finito alla grande facendo ancora un disco, dai. Ecco, possiamo dire così. Senti un po', negli anni che vi hanno diviso tra il disco precedente, In armonico disaccordo, e ora, è successo qualcosa che vi ha un po', come dire, anche cambiato dentro? Cioè sicuramente sì, ma qualcosa di più, come dire, preponderante rispetto al resto che ci vuoi raccontare? Qualcosa che ha cambiato il vostro modo di porgervi verso i vostri fan, nella vita, tra di voi, che poi ha dato linfa per questo nuovo disco? Cioè magari qualche aneddoto da raccontarci in particolare, se vuoi. Ma sicuramente in questo disco c'è il valore aggiunto degli anni passati, ovviamente crescendo eccetera eccetera, le cose classiche che succedono a tutti. Sì. E poi anche il confronto che abbiamo avuto con dei ragazzi qua di Torino che fanno un festival di musica emergente con cui abbiamo collaborato per questo disco. E quindi oltre alle nostre idee e alle nostre esperienze e canzoni abbiamo collaborato e quindi il confronto ci ha dato degli spunti per tirare fuori un sound più moderno, insomma degli arrangiamenti di un certo tipo, e quindi questo è stato forse la cosa che più ci ha cambiato, lavorare insieme ad altre persone sempre nell'ambito della musica qui a Torino. Senti, ma invece il nome Arturo Contromano da dove viene? Cioè, perché Arturo Contromano? Chi è Arturo che va Contromano? In realtà nel gruppo non c'è nessun Arturo. Lo chiedevamo proprio per questo. Chi è Arturo? Arturo in realtà è come se fosse il nostro pseudonimo, no? E quindi questo fatto di essere Arturo Contromano per noi sei, perché siamo in sei, è un po' una filosofia di pensiero, quindi cercare di fare la musica che ci piace, che ci interessa, mettere cose interessanti, non seguire per forza una linea già tracciata, cercare nel nostro piccolo di mettere qualche perla di originalità qua e là, qualche dettaglio così di cose che non sono sempre sentitissime. E quindi in realtà è un po' questo, una sorta di filosofia del gruppo. Quando siamo insieme siamo Arturo Contromano. E appunto, come va Contromano Quello che ci resta? Parlaci di questo album. Ma diciamo che va Contromano perché innanzitutto diciamo, no, non siamo legati a un genere solo, e quindi nel disco, se lo ascoltate, potrete trovare un po' di rock, un po' di pop, un po' di funky, qualcosa di latinoamericano, insomma, quello che ci interessava è riuscire a trovare per ogni argomento, per ogni canzone, il suo vestito che gli fornisse, come dire, quella spinta in più, anche magari di ritmo e alle volte anche di drammaticità, che gli dava, insomma, il colore giusto a ogni canzone. Perfetto, ma ascoltami, il vostro sound, che hai detto nell'album sì, è molto variegato, da cosa attinge? Cioè, voi da chi prendete spunto per le vostre canzoni? Se prendete spunto da qualcuno, immagino di sì, per i diversi generi musicali c'è sempre una figura, un gruppo che diciamo, la fa da padrone. Sì, beh, noi diciamo che essendo in sei abbiamo tanti riferimenti diversi, forse anche per questo che ci sono più generi nel nostro lavoro. E per dirtene qualcuno, ci piace molto l'italiano, per dire Capostela, se no potrei dirti Gazzè, oppure di stranieri ci sono tutti i grandi gruppi rock degli anni 70, che ovviamente sono patrimonio di tutti, e, insomma, queste cose qui ci ispirano parecchio, e poi cerchiamo di ispirarci a chi ha fatto veramente delle cose di qualità, cose interessanti, e quindi di provare a emulare, ma di fare, come dire, alla nostra maniera, alla nostra qualità, insomma. Senti, invece Fuori gridano e sparano, il vostro singolo che di questo momento, di cosa parla Fuori gridano e sparano? E tra l'altro sembra molto apocalittico come scenario. Ma in realtà non parla della fine del mondo. Sì, va bene, però no, però diciamo che parla un po' del è una storia d'amore, però è, diciamo, dietro la facciata, parlo un po' del rapporto col mondo che ci circonda. È tutta una canzone basata sui contrasti, un po' fa notare la farsa di vita che ogni giorno magari ci capita di vedere, l'amore un po' spettacolarizzato, gli inganni, queste cose qui, e poi una dimensione magari più personale di questi ragazzi che insieme trovano un po' i sentimenti sinceri. Più o meno è questo il senso generale. Senti, siete in tour in questo momento? Sì, da quando è uscito il disco, che è praticamente un anno, siamo in giro e stiamo cercando di uscire fuori dalla nostra zona. Siamo stati a Roma qualche settimana fa e a gennaio saremo il 18 a Lucca e poi il 19 a Imperia. E chi lo sa, insomma, stiamo organizzando di fare altri giri. Chissà che non passate pure di qua, dalla Sicilia. Sarebbe bello, visto soprattutto nei mesi invernali, sarebbe ottimo. Sì, così sì. Vi consolate e pensate che proprio l'inverno non esiste, venendo qui in inverno. Va bene. Come dice la canzone, l'inverno passerà se veniamo in Sicilia. Bravo, l'inverno passerà. Senti, ultima cosa, progetti per il futuro? Ma per adesso sicuramente il live. E da pochi giorni però è uscito il video di questa canzone di cui parlavamo prima, quindi per tutti quelli che sono curiosi andate su arturocontromano.com, canale YouTube, c'è nei link in alto a sinistra, e visualizzate, vedete, commentate, diffondete, insomma. Per adesso è live comunque, e poi stiamo lavorando a qualcosa di nuovo, ma per ora è quello. Perfetto, allora noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, ti auguriamo tanta fortuna, e prima di salutarci ricordiamo Arturo Contromano, quello che ci resta. Noi ci ascoltiamo il Fuori gridano e sparano, una bella canzone d'amore. Sì, e nel frattempo in sottofondo abbiamo ascoltato Il paese del terrore, invece, mentre ti ascoltavamo. E ti ringraziamo ancora per essere stato con noi e ci ascoltiamo, come diceva Andrea, Fuori gridano e sparano. Grazie. Ciao Paolo. Fuori gridano e sparano. Vendono l'anima, fuori mi hanno stancato con cazzate e banalità. E intanto tu, così diversa, dolcissima, mentre piove veleno, il tuo dolce pensiero mi riparerà. Ed eccoci tornati, sempre in onda con Radio Panorama. Ah, mi piace questo chiarimento. Compa, dico, non se ne andava. Allora ho detto, io voglio regalarlo in diretta ai nostri il muco che rientra dentro. Salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto. Sì, salutiamo Giuseppe, ad esempio, dalla Versilia. Ci ha mandato un messaggio che io ovviamente vedo. Sì, ci ha mandato un messaggio. Ma era qui, è la prima volta che ascolto questa radio. Beh, mica male per adesso. Ci ha scritto anche, ovviamente, che potevamo chiamare almeno collegarci con sempre lui. Non lo so, perché qua c'è un messaggio, un saluto alla Versilia. E su Twitter Giuseppe, uno dei tuoi follower, che ci dice che la prima volta che ci ascolta è mica male, però. Un altro dice: potremmo chiamare la HAC per il preponderante argomento della fine del mondo. Beh, magari in se rimaniamo vivi la chiamiamo per chiederle come mai non è finito. E lei dirà: esatto. Buoni, sì, potremmo anche invitare la Concia, l'onorevole Paola Concia. Che è vero, che la tonta ci ha salutati. Sì, ci ha salutati. Poi salutiamo Andrea che ci scrive, il mio omonimo. Invece, un altro mio cognonimo che dice: ci sono i Rem, va bene, buona musica, resta con noi perché ci sarà. Continuerà ad esserci buona musica. E poi, insomma, tutti gli altri che ci hanno scritto, come la fantomatica ragazza, o crediamo Nina Red. No, non è lei. Un'altra persona che ci ha scritto dicendo che noi moriremo a mezzanotte. Comunque, sì, però non ci ha detto ancora. Ma è quella che non ci ha scritto ancora il nome? Sì. Salutiamo anche Ale, che ci ha detto che a quanto pare il mondo finirà alle 11 del mattino. Non si sa perché. Tutti danno orari. No, danno ma perché numeri. C'è questo nuovo orario che a quanto pare è alle 11. È alle 11. Non so sempre se ora è italiano o meno. Ancora non si è capito. Di che paese? Appunto, di quale paese? Vabbè, prima stavo cercando di dire, a proposito di Twitter, che l'anno scorso, non so se tu sai, si giocava a rendere su Twitter i titoli dei libri più noti un po' meno smargiassi, quindi sotto l'hashtag Less Ambitious Books, cioè si cambiavano i nomi dei libri, per esempio, che so, Una mezz'oretta di solitudine, oppure Così Charlò Zarathustra, o Il barone Floscio, insomma ce ne sono un po'. E allora i primi esempi che sono venuti a questo qua, che secondo me è un mito, ce ne ho pensati altri. Se questo è un superuomo, Primo Levi, sarebbe anche Stroncatura della ragion pura, Canto ovviamente, Un paese con. E c'era Un paese senza, non ho idea qual è l'origine. E poi Sterminio a Venezia di Mann e Il defico gallico di Giulio Cesare. Il defico gallico credo che sia un libro molto bello. Bello, apprezzato bello. Dagli uomini dall'antica Roma. Sì, ma anche dalle donne. Cioè, anche mettere il defico. Roma pare che sia arrivato fino a Troia. Attenzione. Il defico gallico. Ho capito, ovviamente. Tu sei proprio un deficiente. È possibile. E io che ti vengo dietro, insomma. Senti, so che invece devi collegarti con una persona. Annuncialo. Sì, tra l'altro l'altra settimana ci ha lanciato delle emozioni. Proprio, ecco, non è che ce le ha date, ci ha lanciato delle emozioni. Io ancora mi sento male solo a ricordarle. Beh, lui si potrebbero spendere mille parole per raccontarlo, ma preferisco sia lui a raccontarsi. Voglio solo darvi qualche accenno prima di lanciare l'unico vero pezzo che può farlo entrare in diretta. Lui ci viene a trovare da 3 anni ed è l'ultimo vero baluardo del comunismo, non soltanto in Italia, in Sicilia, perché lui viene da Rocca Palungba, anzi da Regalcioffoli, pardon, che ora è una colonia di Rocca Palungba, ma è un comunismo che ha respiro internazionale. Dal collettivo Giancarlo Mattello, sulle note dell'Internazionale Comunista, do il benvenuto a Fidelio Cusimano. Carissimo Fidelio, buonasera. Buonasera a tutti voi di Radio Panorama. Ma mi scusi, buonasera. Io la sento. Ma dove si trova? Io sento che lei è al telefono. Sì, buonasera, io non sono potuto venire dalla mia grandissima città di Regalcioffoli, anzi invito tutti i vostri ascoltatori a cercarla su Google Maps. Certo. Quando trovate un puntino bianco in mezzo a tanto niente, quello è Regalcioffoli. Io pensavo io pensavo fosse un puntino rosso in mezzo al nulla, mi perdoni. Sì, ma Google Maps, come sappiamo, è fascista, quindi non metterlo. Più che altro democristiana, se no sarebbe stato nero. Senta, ma dove si trova non me l'ha detto però. Ma guardi, mi trovo verso il Polo Nord. Il Polo Nord. Anche qui c'è il problema. Come mille. Il Polo Nord. Mi scusi, ma lei si trova al Polo Nord per cosa? Per fare gli auguri? Per andare da Babbo Natale? Che fa? No, guardi, noi stiamo facendo un'escursione. Un'escursione? Sì, stiamo facendo un'escursione. Ma un'escursione dove, scusi? Ma nella steppa scampinata a 40 sotto zero. Ma è Popov. Ma questo è proprio Popov. A 40 sotto zero. Se ne infischia. proprio mi fa le citazioni, ma in diretta, dal posto in cui è stata concepita e creata questa canzone. Ma qua ci vuole l'applauso del pubblico. Non so se il pubblico è pronto, forse no, sono tutti allibiti, non riescono a dire niente. Allora mi dica, signor Fidelio. Aspetti, il pubblico si vuol, si vuol fare sentire il pubblico, tutto per lei. Grazie, grazie. Guardi, noi abbiamo voluto fare, noi del collettivo Giancarlo Mattello, una bellissima iniziativa comunista alternativa al consumismo natalizio. Siamo qui nella steppa sconfinata a 40 sotto zero proprio per rimarcare questa idea che appunto nella televisione vecchia degli anni 40 si trasmettevano canzoni che non erano, che erano solo canzoni per bambini. In realtà Popoff è la metafora e non è, ed è una storia vera. Il nostro caro Popoff esiste, è vivo e lotta sempre insieme a noi. Caro Popoff, e noi abbiamo fatto questa escursione per venirlo a cercare nella Ma scusi, a 40 sotto zero. È casuale il fatto che voi lo andiate a cercare proprio a quanto pare un giorno e mezzo, due, prima che finisca il mondo? Oppure era qualcosa di programmato da tempo? Guardi, lei mi ha colto in fallo, devo dirle anche una sottile verità. Noi del collettivo Giancarlo Mattello, collettivo universitario comunista, abbiamo saputo dal nostro caro amico Stalin che si è fatto congelare nella steppa sconfinata. Però ogni tanto lo scongelano per parlarvi, lo scongelano. Insieme a Popoff, lui sapeva di questa cosa dei Maya, sì. Anche perché gliel'ha detto Medvedev. Perché la seconda volta si incazza? Mi scusi, non le andava bene il primo Medvedev? Il premier russo l'ha svegliato, gli ha detto: guarda, so che ci sono gli alieni, me l'hanno detto i Maya. Ma chi te l'ha detto? Gli alieni, è un circolo vizioso, insomma, tutti sanno di tutto. Cioè, lui ha quindi lui, scusi, ha saputo che c'erano gli alieni dai Maya e ai Maya l'hanno detto gli alieni. Ovviamente, che hanno comunicato questa data finale della fine del mondo. Quindi, verranno degli alieni. Sì, verranno degli alieni, quindi questa è una cosa nuova che non si sapeva. Non glielo posso dire, però noi del collettivo Giancarlo Mattello, essendo veramente dei baluardi del comunismo in Sicilia, in Italia, nel mondo, gli baluardi, più della Russia di Medvedev, abbiamo ci hanno chiamato per venire qui. Quindi stiamo recuperando le spoglie del nostro milite ignoto Popoff. Stiamo venendo qui nel bunker costruito per scappare. Senta, io mi scusi, all'Armageddon. Sì, io ho saputo che lei si è portato un piccolo special guest in Russia. Se non sbaglio dovrebbe esserci con lei Michelino, il piccolo che ogni tanto viene a trovarci. So che si è infilato nella stiva dell'aereo. Per caso noi vorremmo sentire come Michelino reagisce al freddo in Russia, se ce lo può passare. Ma guardi, un attimo, perché dietro col mio cosacco, un attimo che lo prendo, sì, credo sì. Che ci sia infilato un colbacco. Ah, perché il cosacco è un'altra col cosa. Colbacco del collettivo Giancarlo Mattelli. Cioè proprio con lo stemmino. Sì, prego, prego. Dimitri, Dimitri. Ma non si chiamava Michelino, mi scusi, cioè non lo so. Dimitri, passami il bambino. Ah, Dimitri è un altro, penso fosse il nome. Non quello già mangiato, quello no, vivo. Non è vero, dobbiamo sfatare questo mito quello, comunista del bambino. Quello lì. Basta, basta. Michelino, Dimitri, bambino, parla alla radio, dille le tue ultime parole, le tue prime. Michelino. Michelino. Ciao, ma stai morendo di freddo? Sembra un telefono occupato in Russia, ma cioè, infatti siamo in Russia più o meno. Michelino, perché sei andato lì a morire di freddo, Gioia? Vuoi la mamma? Ma dov'è la mamma? Morta. Come è morta? Se la sono mangiata. E come se, come è morta? Non voglio saperlo, se non se la sono mangiata posso immaginare. No, cosa? Ah, cantando Popoff è morta. Guardi, mi scusi, devo togliere il cellulare al bambino, sì. Perché sto facendo ovviamente un intercontinentale. Vero che è nel bunker, non prende il cellulare, quindi posso anche buttarlo. Certo. Strumento del demonio. Ma devo insomma abbandonarlo, perché la telefonata si sta prolungando. Sì. Il collettivo di Giancarlo Mattello abbiamo trovato. Va bene, allora se dovesse finire il mondo noi ti ringraziamo. Ma io vorrei dire una cosa, sì. Ti ho chiamato per invitare la popolazione che ci sta ascoltando nell'etere a venire qui in Russia. Ma come in Russia? Ma mi scusi, sta finendo il mondo? La salvezza è a 40 sotto zero. Ah, quindi lei sta dicendo che tutto il mondo dovrebbe raggiungere lì, o almeno i nostri ascoltatori. Quindi sappiate, sì, che per salvarvi. Le crede che Medvedev L'abbia detto una vaccata? No, ovviamente no. Ovviamente, quindi ascoltate il consiglio di Fidelio Cusimano. Cari ascoltatori, se volete resistere, scampare alla fine del mondo ormai prevista per domani, anzi scusate, per dopodomani alle 11 o alla mezzanotte, ancora non si sa, dovete andare. Guardi, io lo so, forse. Ovviamente, ma non posso dirglielo perché noi del bunker come non posso dirglielo al segreto. Ma scusi, ma se vogliono raggiungerla ci deve dire un orario, almeno loro si orientano. Devono raggiungermi al più presto possibile. Va bene, allora raggiungete al più presto Fidelio. Fidelio, se dovesse, come sappiamo, finire il mondo, grazie per essere stato con noi per questi 3 anni. Un applauso del pubblico è il minimo dopo questi 3 anni insieme. Grazie davvero, grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. E ovviamente trionferà il comunismo e la libertà aliena e Maya. Perfetto, e adesso credo sia il momento di lanciare la pubblicità. Ma ci vediamo subito dopo, sempre con L'Onda in Onda. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Credo in una cosa chiamata amore. I believe in a thing called love. Erano i Darkness e sono le 19.41 qui sempre dagli studi di Radio Panorama Termini Imerese per L'Onda in Onda con Andrea Antonio e special guest oggi Claudio. Claudio che possiamo... è in diretta? No, non è ancora in diretta. Sta cercando di collegarsi con il prossimo ospite che sono i Sunday Recovery. Sì, è Mirko dei Sunday Recovery, una band che sta facendo furore in Inghilterra. Devo dire che... Furore, nada. Sì. Attenzione, ci fa segno Claudio che abbiamo... Mirko è collegato con noi, ciao Mirko! Ciao a tutti, sono nel traffico, c'è il delirio. Fantastico, ciao. Allora fuori il pugno dalla macchina e manda tutti a fanculo, dai. Dai, andate tutti a fanculo. Grande, applauso del pubblico. Applauso del pubblico, applauso del pubblico. C'è subito l'applauso che parte per Mirko. Sei già nei nostri cuori, Mirko. Come la va? Come la va a parte il traffico? Beh, molto bene, molto bene. Appena rientrati da Amsterdam, concerto, e non solo il concerto, sappiamo bene di cosa stiamo parlando. Sì, stiamo parlando della nebbia in Valpadana, che però si sposta clamorosamente al nord Europa. Esatto, ti capiamo di quella nebbia, bene. Di quella nebbia un po' medio-bassa. Medio-bassa, no? Medio-bassa, sì, capiamo benissimo. Insomma, il mercato dei fiori, le biciclette. Diciamo insomma, che Pannella. Hanno brevettato questo nuovo sistema di aerosol. Fantastico. Comunque, se tu vuoi venire a allora, una figata, io lo consiglio a tutti, di passare da paura. Se vuoi venire a collaborare in radio con noi, ci hai già conquistato, quindi quando vuoi c'è una sedia e un microfono anche per te che ti aspettano. Guarda, posso farvi anche la voce quella un po' così, un po' impostata. Sì, dai, facci la voce da bluesman, visto che tu hai la voce proprio da blues. No, vi posso fare al mio segnale scatenato in inferno. Ragazzi, Leonida. Sì, no, diciamo che io sono Massimo Decimo Meridio della Legione. Qua se dobbiamo fare la gara, famola buona. Allora Vai Andrea, stavo chiedendo qualcosa. No, dicevo, a parte che Pannella è ormai argomento, diciamo, della giornata, dato che ho buttato un occhio anch'io su questa cosa. Ha accettato le flebbo perché ha avuto... Lui, diciamo, è promotore di quel che gira ad Amsterdam, sì. Quindi tutto si ricollega. Tutto sempre si ritorna, tutto torna alla fonte, tutto torna ad Amsterdam, è lì che tornerai. Allora Mirko, parlaci del vostro gruppo, i Sunday Recovery, grande successo in Inghilterra. Ma come siete riusciti ad avere così tanto successo in un paese straniero? Allora, innanzitutto andandoci. Beh, sì, ok, questo non è male. È ancora l'effetto di Amsterdam. Sì, ancora l'effetto Amsterdam. No, siamo andati là, nel senso che quando ci siamo incontrati, abbiamo, diciamo, buttato giù i primi brani. Abbiamo trovato questa nostra finanziatrice che credeva in questo progetto e abbiamo deciso di partire direttamente da là, perché ho detto ok, dobbiamo confrontarci con un mercato molto serio dove c'è una concorrenza micidiale. Vi dico solo che soltanto a Londra ci sono 60.000 band indipendenti che vogliono suonare. Quindi ho detto ok, abbiamo deciso di registrare il disco là, e là gli stessi produttori ci hanno detto dovete rimanere qua e suonare, non pensare a vendite, a distribuzione o cose varie, dovete sporcarvi e suonare, anche perché noi comunque ci siamo messi insieme da pochi anni e serviva assolutamente entrare un po' nel mondo del rock, ecco, e sporcarsi, quindi, appunto, insieme. Noi mentre sì, ti stiamo nelle peggio bettole del mondo, partendo da Manchester, sì. Glasgow, siamo andati anche in Irlanda, Scozia, abbiamo fatto alla fine una cinquantina di concerti, adesso torneremo fino a gennaio. Ma quelli fanno le ossa, ma cioè, da roba seria. Sì, ma di brutto, cioè, io sono contentissimo perché abbiamo anche ricevuto qualche bunga bunga in faccia. Bene. Bello. Sì, perché noi dovete sapere, quando noi ormai siamo trattati, no? Avete presente, no? La situazione qual è? Quindi appena dicevamo noi siamo Sunday Recovery, from Italy, e dal fondo della sala sempre bunga bunga. Allora dicevo, ragazzi, alziamo questo cazzo di volume, facciamo vedere a questi inglesi. Che cos'è il bunga bunga? E noi lo alziamo. Questo è Pornstar. Allora, appena ti ho detto alzate il volume, noi abbiamo alzato su Pornstar che sta andando in sottofondo mentre ti intervistiamo. Intanto dirmi, prima di parlarmi dell'album, chi ha fatto la vostra copertina, perché è veramente molto bella, minimal. Guarda, la nostra copertina l'abbiamo fatto tutto in casa, perché la fidanzata del nostro produttore artistico è una grafica che sta lavorando a Londra. Ho capito, una gran fica, perché se ci metti la N in mezzo, la grafica diventa una gran fica. È anche una grande tecnica di grafica. Benissimo. Il nostro ingegnetto. Fantastico. Quindi l'abbiamo sfruttato immediatamente, no? Devo dire che il risultato molto, finale molto molto bello. Sì, abbastanza minimal, ma di impatto. È ottimo, sì. La scelta di chiamare l'album Coma. Beh, la scelta di chiamare dopo Amsterdam, perché... è nata, immagino. Sì, è nata, esatto, hai letto esattamente tra le righe. No, la scelta di Coma è perché fondamentalmente un po', diciamo, tutti i testi fanno riferimento comunque un po' a questo, un po' un disagio un po' generale, a questa sensazione di torpore che abbiamo un po' tutti quanti, che nessuno tende un po' a, no, non ti reagisce più, sono tutti un po' passivi. E allora ecco, un po' riferito a noi persone in generale, soprattutto naturalmente in Italia, ma poi alla fine anche fondamentalmente in Europa, perché poi noi abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto 3 anni fa. Quindi quando c'è uscito questo brano Coma era proprio riferito a, cioè io personalmente ho proprio il bisogno di comunque toccare argomenti che ci abbiamo intorno, quindi era un po' un incentivo alla reazione, ecco. Senti, ma il sound dell'album invece è abbastanza aggressivo, cioè un rock bello sporco. La difficoltà di creare di inserirsi con un genere così in un mercato di rock indipendente è più facile sicuramente che all'estero che in Italia, questo è chiaro. Ma le vostre influenze quali sono? Guarda, noi la cosa bella che mi piace molto di questo, diciamo, di questo gruppo che siamo riusciti a fondare praticamente, è che veniamo tutti da quattro percorsi completamente differenti l'uno dall'altro. Cioè il nostro batterista inglese viene dalla fusion, dal jazz, il bassista è un panchettone, io sono più cantautoriale, io scrivo le mie cose in italiano, cantautoriali, molto sempre sul sociale, e chitarrista è rockettara. Poi abbiamo il nostro produttore artistico, il quinto, diciamo, Sunday Recovery, che è, diciamo, il padre d'union per tutti, no? E quindi da ognuno che tira fuori uno spunto, quindi riusciamo a avere, cioè siamo riusciti, secondo me, quello che è il nostro obiettivo, poi rimanere un po' fare questo disco rock però con diverse influenze. Comunque abbiamo alla base, ci sono sempre i Radiohead, i Porcupine Tree, che poi ci ha aperto un mondo questo incontro con i Porcupine Tree, anche perché il bassista è Colin Edwin proprio dei Porcupine Tree. Esatto, noi l'avevamo visto in un concerto 4 anni fa a Roma e abbiamo avuto la fortuna di incontrare Steven Wilson e lui. Gli abbiamo mandato il materiale, ma ci ha risposto dopo, non subitissimo, stavo 2 mesi e mezzo, e c'era intorno negli Stati Uniti, e ha deciso lui, ha detto guarda, a totale disposizione scegli il brano e lui ne ha scelti due. Infatti nel disco c'è In Front of You e Side C che ha suonato, e questo ci ha fatto innanzitutto piacere, perché naturalmente cioè, ha scelto e ha detto sì a un progetto che comunque era il nostro primo disco, quindi non eravamo nessuno, e quindi ancora più onorati, che proprio si è fidato della musica, non è guardato al vostro passato, esatto. Quindi questo ci ha fatto veramente piacere. Senti, io ti devo fare una domanda che strizza un po' l'occhio al bimbo minchiesimo, quindi te la faccio un po' con la voce bimbo minchia, perché è un po' bimbo minchia, un po' seria. Senti, ma il pezzo a cui siete più legati, cioè qual è? Per un motivo X, puoi anche non dirmelo. Ma guarda, ti posso dire la verità, dipende dalla serata. Ah, cioè in questo momento, dato che sei allora, tornato da sì, esatto, cioè, e questo è come dire, cioè si può dire ti amo una persona in 500 modi diversi, no? Oppure fare sesso con la stessa persona in 500 modi diversi, io ne conosco 5, però gli altri 4, però comunque si può fare in diversi modi, cioè nel senso non c'è un pezzo, io mi alzo, ci sono delle sere dove Pon Star mi diverto da morire farla, ci sono altre sere dove Private Joke, dipende dall'atmosfera, da io non riesco ad avere una canzone, è come dirmi, come chiedermi qual è il tuo film preferito. Lo so, non riesci, periodi. Qual è periodi. La donna più bella del mondo? Non esiste, perché se ti eccita, cioè capito, se c'è un buon rapporto va bene, va bene. Assolutamente sì. A me non riesco a dare la canzone migliore, anche perché sono tutte canzoni che nascono da noi, quindi sarebbe ingiusto nei confronti delle altre, nel senso ogni canzone ha una sua emozione e un momento. Ma come sound si avvicina un po' a un, non magari come storia, ma come sound un pochettino a un concept, il vostro album, possiamo dirlo? Scusa, non ti ho sentito. Come sound si avvicina un po' a un concept album? Sì, guarda, noi non abbiamo voluto prendere una direzione ben precisa, cioè noi abbiamo scritto 30 canzoni e alla fine ci siamo confrontati, abbiamo deciso insieme, cioè abbiamo anche una sofferenza quando c'è fuori altri progetti, altre canzoni che comunque sono altre emozioni, no? Quindi lasciarle fuori è un po' l'alunno che esce dalla classe, no? Perché uno dovrebbe fare un disco con 40 canzoni dentro, perché poi fortunatamente riusciamo a produrre continuamente, quindi questo è molto buono. Tanto è vero che adesso, da che facevamo il concerto da 40 minuti, perché si suonava tutto il disco, già noi iniziamo a fare un concerto da 1 ora e mezzo, perché stiamo già introducendo i nuovi brani che comunque andremo a fare adesso prossimamente in un EP o un nuovo album. Probabilmente faremo un EP, adesso vediamo. Quindi è già previsto un nuovo album che uscirà a breve? Sì, assolutamente sì. Naturalmente. Quando? Qual è il problema? Cioè il problema nostro, nel senso, avendo completamente inesperienza dal punto di vista di organizzazione, perché comunque siamo da soli, siamo indipendenti, facciamo tutto quanto da soli. Naturalmente quando tu, adesso siamo andati ad Amsterdam, ci hanno invitato per altri concerti, cioè comunque vai in un paese, magari in Inghilterra siamo usciti l'anno scorso, ad Amsterdam usciamo adesso, in Germania stanno uscendo le recensioni, dovremmo andare, quindi proporremo ancora Coma. cioè non è che ogni sei mesi possiamo fare un disco, no, cioè, noi quello, quello è ovvio. E quella è una cosa bella, ma allo stesso tempo già noi abbiamo il bisogno di fare altre cose, perché comunque come ci stiamo lavorando da 3 anni. In Inghilterra naturalmente abbiamo detto, primo disco ve lo dovete portare almeno 4 anni in giro se volete fare un discorso di farvi conoscere, per comunque per capire anche un po' il tipo di pubblico differente, perché poi adesso abbiamo stato soltanto in Inghilterra, Scozia, Irlanda, anche in Italia, in Italia soltanto a Roma perché ancora non ci siamo organizzati. E adesso vediamo, siamo anche negli Stati Uniti, stiamo avendo un buon riscontro dal punto di vista, parlo sempre di web, di vendita digitale e anche di vari social network, comunque riusciamo ad avere un po', a capire un po' quali sono i paesi che apprezzano il nostro lavoro. Quindi adesso porteremo ancora avanti, però già stiamo comunque lavorando e suonando già i pezzi nuovi nei live, in modo tale che quando registreremo il disco saremo già belli pronti. Io vi devo fare complimenti perché i vostri social, anche il vostro sito, non, da lì non traspare nulla di italiano. Sembrate proprio una band straniera che suona all'estero, quindi su questo tanto di cappello. Bene, io volevo chiederti le ultime due cose. Se siete in tour e poi, vabbè, progetti per il futuro, me li hai praticamente detti. Quindi rimane la domanda, rimane, se siete in tour e dove gira? Sì. Dove andate? Vedi come ti fai bruciare le domande, sei un pirla, scusa, sì, è un pirla. Me l'ha bruciata lui. La domanda è, lui è un po' marzulliano in questo, si fa la domanda e si dà la risposta. Sì, assolutamente, no? Assolutamente. Quando un giorno, vista l'ora, sta per finire, l'aperitivo sta per iniziare, un giorno, esatto, in più per amare, sì, per ascoltare musica. La canna sta per finire, è il momento la di tornare ad Amsterdam. Basta, insomma, ecco. Esatto. Allora, quindi siete in tour o state per iniziare un tour? Guarda, noi praticamente dopo questi 6 mesi che abbiamo fatto in Inghilterra, adesso abbiamo ripreso, però non è che facciamo, adesso non c'è un tour vero e proprio, noi adesso torneremo, stiamo preparando delle cose nuove, dobbiamo preparare adesso un paio di video, adesso andremo l'1 e il 2 febbraio, avremo l'1 febbraio andremo vicino a Londra, a Brixton, dove ci hanno invitato a un festival, il 2 febbraio suoneremo al Cargo di Londra, quindi stiamo un po' cercando in questo momento, stiamo rispondendo un paio di mail, un po' di cose, perché poi chi ti invita bisogna anche capire chi è, no, naturalmente, quindi certo. Quando ti chiamano in un paese, essendo indipendenti, ti chiamano in un locale, non sai neanche che cos'è, quindi noi siamo assolutamente in questo, ci stiamo crescendo anche in questo, no, quindi abbiamo fatto anche gli errori, queste cose, che è anche bello, perché che ne so, il secondo concerto ci hanno invitato in Scozia. Dopo ci siamo tornati in un altro modo, ma il primo concerto fatto in Scozia è stato bellissimo, cioè abbiamo fatto Traverso le Pecore, è stato meraviglioso. Sì, sono stato in Scozia, volevo uccidere tutti quelli che suonavano cornamusa, però vabbè, è bellissimo. Ma perché? È fantastico. Non ce la facevo più. Poi immagina la sveglia la mattina con le pecore vicino. La immaginavo. È veramente rock, siamo arrivati in questo posto che era allucinante, ma ci siamo divertiti, perché poi naturalmente l'importante per noi in questo momento è suonare, cioè noi dobbiamo assolutamente suonare, e devo essere contento di una cosa, che sto apprezzando un po', diciamo, questa crisi che c'è, è devastante per tutti, e soprattutto per chi fa un mestiere comunque come il nostro, anche come il vostro, cioè nel senso comunque che si occupa un po' di arte in generale, ma questa crisi in generale della discografia sta facendo bene, soprattutto secondo me per la musica live. Perché adesso qualunque tipo di artista, prima vi ricordavate, cioè per andare a vedere un concerto era un concerto, insomma, i grandi facevano un concerto ogni 5 anni, no? Sì. Adesso suonano tutti. Sì. Quindi sì, bisogna suonare perché c'è crisi, non si vendono i dischi, non si fanno determinate cose. E allora si punta sul live. Va bene, noi ti ringraziamo Mirko infinitamente, è stata veramente una bella intervista. Ci risentiremo, spero presto, appena farete il prossimo lavoro, magari per un tour che passerà anche da queste parti. O magari anche prima. O magari anche prima. Forse non avete capito. No, non fate gli italiani, adesso voi ci dovete, quando sarà, ci invitate, organizzerete qualcosa di figo sicuramente, perché siete fighi. Organizzerete un contest, un qualcosa dove si gira, dove si passano le cose light, queste cose qua, no? Si passa di mano, questo, sì, dove esatto. C'è un bel po' di caciara, noi veniamo. Va bene, va benissimo. Fantastico. Soprattutto queste cose light, perché nessuno mangia pollo. Quelle le porto io, Sì, sì, sì, porta. Va nessuno bene. Qui alle dita sporche di pollo, ma il nostro regista dice non ti preoccupare, le porto. Non ti preoccupare, ho tutto io. Esatto. La finanza è fuori dalla porta. Cosa, scusa? Vengo autofornito. Dico. Ah, perfetto, autofornito e automunito. Va bene, dopo aver ascoltato Mirko e questa intervista in sottofondo Pornstar, ci ascoltiamo Coma e salutiamo ancora una volta Mirko. Grazie. Vado ad aprire la finanza, grazie, che è lì alla porta. Sì. Ciao Mirko. Vado ad aprire la finanza. Ciao, grazie, ciao. Ciao. E siamo qui su queste atmosfere sognanti, appunto da coma, dopo aver ascoltato questo pezzo dei Ricordami il nome, perché io sono purtroppo dai, un po' negato. I Sunday Recovery. Ricordavo Mirko, ma non ricordavo al momento il nome del gruppo. Chiedo venia, Mirko, chiedo venia. Se sei ancora all'ascolto dell'Onda in Onda, ricordiamo un attimo i contatti: SMS al 380 7690 204, telefono fisso se volete farci sentire la vostra bella vocetta, 091 888 5182. Se non ci state già ascoltando in streaming, potete farlo su www.radiopanorama.info o eu. Allora, notizie, non so se sai cos'è la Snapchat. No. Vero? No. Sta spopolando. È una cosa inventata da quattro studenti, che è piuttosto delle classiche chat, non so, di Facebook o altre che ci sono online. Cosa succede tu? Se mandi un'immagine in chat o scrivi qualcosa su Facebook, ovviamente rimane, no? Resta salvata nella memoria dei messaggi. Snapchat è una chat in cui tutto si autodistrugge dopo pochi secondi, un po' alla Mission Impossible. Quindi una foto mandi... Come? Sei morto mentre parlavi. Mandi una foto, dopo pochi secondi già non esiste più nel computer della persona ricevuta. Sparisce nel nulla. Non la puoi trovare neanche se non hai il tempo neanche di salvarla. È una chat a tempo per mandare tipo foto porno o cose del genere, quella è un'idea. Ma... e sta spopolando Snapchat, provala. Snapchat, la proveremo. Quindi è inventata da quattro studenti. E poi non so se hai saputo che hanno scoperto come è morto Ramsay III. Sì, è stato sgozzato come un agnello sacrificale. Sì, per fortuna, come ha detto un nostro caro amico su Facebook, la giustizia, il buon Peppe. Sì, la giustizia italiana non è tra le più lente, diciamo. Sì, c'è anche quella egiziana, che insomma mica cotica. Anzi, salutiamo Peppe, che ovviamente non ci ascolta perché è impegnato. Dov'è? È tornato? Sì, è appena tornato. Ah, non l'ho ancora visto. Va bene, io credo sia il tempo di farlo entrare. Sì. Che dici? No, dopo. Dopo. Prima dobbiamo lanciare la pubblicità. Quanto abbiamo prima della pubblicità? Allora continuiamo con la classifica, sì, con i 10 oggetti inanimati con cui intratteniamo conversazioni. Andiamo alla numero 8. Sarà capito a tutti: i libri durante lo studio. I libri durante lo studio, con i libri durante lo studio si raggiungono stati mistici come quello ma mio. Anche quello tuo. Sì, tu sei tra il coma e lo stato mistico. Si vedono Dio, si scoprono. Si vedono Dio, si vede Dio, si scoprono i mistici. Compare, guarda, io ti ho voluto dare la palla perché stavolta sento che la leggerà bene. Il regista vuole dire qualcosa. No, io spezzo una lancia a favore di Andrea. Ma una macchina in testa, sì, proprio no, su di lui. No, perché insomma si sa bene che Dio sono in tre, quindi si vedono Dio. E qua c'è il pubblico che applaude perché questa è la spiegazione migliore del mondo. Applausi. E si scoprono anche i misteri di Fatima. Assolutamente sì. Dopo qualche ora di studio pesante si inizia a dialogare con i libri, sfogando su di essi la propria rabbia repressa. La comunicazione assume due tipologie principali. Ma cosa cazzo significa questa formula? Che è la rassegnazione. Adesso ti butto fuori dalla finestra. Che è la rabbia. Quale libro ha mai risposto? Nessuno. Ma al settimo posto troviamo Il semaforo. Fra l'arancione e il rosso, in quel momento l'acme. Un guidatore medio intento a scartare il traffico con la grazia di Lionel Messi. Tu sai chi è Lionel Messi? Ovviamente. Giocatore di quale squadra? Va bene. Chiede, implora, supplica il semaforo di non diventare rosso. Questa capita sempre a me. Palermo, via Tarbartolo, via Sciuti. Se lui non ci ascolta e sua sorella stronza, la telecamerina ci fa una foto. La sua sorella stronza. Il guidatore dimentica le staffe e sgancia improperi. In sequenza. Improperi. Ho detto improperi? Sì. Improperi. In sequenza, cattivi, maligni, perfidi. Ci si dovrà pur sfogare con qualcuno. Ma andiamo al sesto posto. Il biglietto della lotteria, il gratta e vinci. I menati del gioco hanno un rapporto. Porto di amore e odio con le macchinette del videopoker. Molto con loro intrattengono conversazioni profonde su tutto, dal senso della vita all'ultimo CD di Ramazzotti. I giocatori da tabaccheria, quelli che sperano in lotto, superenalotto, gratta e vinci, sono invece convinti che chiedere direttamente al biglietto la gentilezza di farli vincere possa riempirgli le tasche di denaro. Regia, mi dici che è il tempo di mandare la pubblicità? E allora rimanete con noi per sapere il resto della classifica, un ospite e poi il grande Marco dei film brutti. A dopo! Sono le ore 20 e 8 minuti. the end of the world right now, Cantano Self con Out With a Bang. È un po' difficile da dire se ti infili la lingua nella tua stessa gola. Ma soprattutto da dire. Ritorniamo quindi in diretta. Sì, sono le 20:12 e ci saluta il nostro regista che se ne va. No, non se ne va. Che segni sono? Saliamo. Saliamo. Continuiamo a parlare. Saliamo, noi saliamo. Ah, ho capito, forse vuole qualcosa da qui. Il famoso MB Stereo Sound. Quello è una radio invece che poi è RB. Vabbè. Comunque, particolare la pubblicità di prima, Andrea. Sì, è stata molto bella. Molto bella. Io comprerò una macchina. Salutiamo anche il nostro direttore. Domani ce ne andiamo a casa. Domani a casa. Queste quindi o Maya o non Maya, noi abbiamo finito. Sì, abbiamo finito la nostra. Questa è l'ultima maialata, insomma, come avevamo detto, è l'ultima maialata. Dobbiamo presentare intanto un ospite. Ah, sì? È un altro che magari di quelli storici che prima della fine del mondo. Esatto. Prima dobbiamo ricordare che verrà Marco subito dopo a parlarci del nostro del film brutto film della brutto settimana, sì, della fine del mondo. Ma noi presentiamo velocemente un ospite che ci parlerà della ricetta della fine del mondo. Lui è lo conoscete tutti. Io lo vado a chiamare intanto. Vai. Ah, salutiamo Glenda che ci ascolta dalla Toscana, da Empoli. E invece lui ci viene dalla Calabria, è un medico, un ex medico nutrizionista calciato dall'albo perché ha ucciso un paziente con una ricetta fortissima all'anduia. Lui era malato di ipertensione, il paziente ovviamente era malato di ipertensione ed è morto. Da allora cerca di lavare l'onta portando le ricette alla cucina calabrese un po' ovunque nel mondo. Arriva in Italia, è qui da noi e noi lo presentiamo con la sua bellissima tarantella. Lui è Tony Scopelliti. E beva di lo Carmine Maria, e ti vedi pedà, e si vedi pedà, e ti vedi pedà, e si vedi pedà. Buonasera, Tony Scopelliti, come sta? Pedà. Buonasera. Si fermi, per favore, Tony. Buonasera a tutte quante. Buonasera, come sta? Benissimo, anche perché è l'ultima volta e voglio dare il meglio di me. Senta, mi scusi. Non si permetta di darmi tu. Mi deve dare del voi. Del voi. Scusate. Poi, ecco. Scusate, volevo parlare velocissimamente del suo libro Le Frecce di Tony. Cultura calabrese cucina. Ma dove lo possiamo trovare questo libro? Assolutamente solo nel mio sito internet www.tonyl3c.ioblog.com. L3c è come scritto? L3c, come devo dire? Non è che è L3c. Tony CCC? No, Tony è L3c, proprio è L di Livorno, E di Emboli, De Trani. Vabbè, R di Rovereto. Senta, velocemente, perché il tempo stringe, il tempo corre. E non solo quello. Una ricetta da fine del mondo. Cosa? Assolutamente. Ci presenta oggi? I pasti e patate al forno. Come? La pasta e patate al forno. La pasta e patate al forno. La pasta e patate al forno. Esatto. Velocemente gli ingredienti. Subito, uno sticchio d'aglio. Non è sticchio, è sempre spicchio. Ma non abbia paura a dire sticchio, non è una mala è parola. Spicchio, in spicchio calabrese d'aglio. Non può dire niente. Parmigiano grattugiato. Sì. Sale. E poi? 5 kg di penne. Ah, non scende. No, stavolta no, perché ormai è finito il mondo a chiana. Sino allo paradiso. Origano, passata di pomodoro, 300 grammi di patate, olio extravergine d'oliva. E sembrerebbe finita qua. Sembrerebbe finita. In realtà, ora arriva il meglio. Ci vanno 4 kg e mezzo di fasole. 4 kg e mezzo di fagioli nella pasta con patate al forno. Sì. 100 kg di così. Che è finito mondo. E me ne approfitto di dare la ricetta che volevo dare dalla vita. 100 kg di salsiccia. 100 kg di salsiccia. Con peperoncino calabro rinincia. Che da rossa. Bella proprio in filo. Esatto. Poi ci vuole la cotenna. Quanta cotenna? Ah, guardi, non saprei dirglielo, proprio tanta. Tanta cotenna. Deve andare in tutte le macellerie della sua città e fottere su tutta la cotenna. Tutta la cotenna. Assolutamente sì. Lardo. Ce ne vuole tanto, tanto lardo. Almeno 1000 kg. 1000 kg di e lardo. E poi, se c'è un rullo di tamburo, lo volesse, però non c'è. Possiamo emularglielo se vuole un... Allora vorrei almeno un applauso dopo che lo dico. Picchi picchiure ci vuole una tonnellata sana rintuia. Una tonnellata di nduia? Ma sì. Lei torna sui suoi passi. Esatto. Perché tanto allora ammazzai, mi sbaglio, un paziente sta pezzo di cornuto. Come? E insomma, io ero cornuto, no, mi stavo sbagliando. E ora che finisci lo mondo, voglio bere quei casafiori a mangiarla, perché tanto finisci lo mondo, almeno morono sazi e contenti. Quindi uno spicchio d'aglio, parmigiano, sale e... Che non scende. Che non scende. 500 grammi di penne e rigatoni, origano, passata di pomodoro, 300 grammi di patate, olio extravergine d'oliva, salsiccia, fagioli, cotenna, lardo e nduia. Allora, il procedimento. In una casseruola versate l'olio, uno spicchio d'aglio e fare rosolare, aggiungete la pasta di pomodoro, una manciata generosa di origano, il sale, ve lo mangiate pure, lasciar cuocere a fuoco moderato e dopodiché la picchiata l'anduia, mangiate. Buona fine del mondo a tutte. Arrivederci Tony Scopelliti. Addio. Noi lo salutiamo il nostro caro Tony. Passiamo subitissimo al prossimo pezzo e restate con noi perché ci sarà Marco dei film brutti. avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. E come ogni mercoledì abbiamo l'onore di avere in diretta Marco. Ciao Marco! Ciao grandissimi! Ciao, come stai? Come te la passi i due giorni prima della fine? Beh, sto cercando un po' sì, di godermi gli ultimi giorni. Vabbè, non approfondiamo. Guarda, sai, dalla scorsa puntata, in questa settimana non sai quanti ascoltatori, o privatamente a me, Andrea, o sulla pagina di Facebook, magari nei messaggi privati, ci hanno chiesto: oh, ma noi vogliamo il numero di Marco, noi vogliamo il numero della tipa. Guarda che sono marito e moglie, vabbè, ho capito, però avete fatto conquiste, porca della miseria. Ne siamo molto felici. Ecco, dovete esserne veramente fieri. Marco, che film brutto ci consigli per autopunirci questa settimana, che è una settimana particolare, prima della fine del mondo? Esatto, visto insomma che comunque il clima è molto freddo e stiamo arrivando un po', diciamo, alla fine di tutto e forse ad un nuovo inizio, il film di stasera è Ice Planet, che è un film tedesco del 2001, sì, che rappresenta, diciamo, la certificazione del fallimento teutonico quando ci si va, diciamo, a scostare dal classico poliziottesco, insomma, dal poliziesco. I tedeschi sappiamo che sono bravi, no? Nelle queste scene action con le macchine che si sfasciano, si fanno a schiantare dappertutto. Sì. Qui invece c'è un film fantascientifico che è un guazzabuglio di cose veramente imbarazzante. Praticamente convivono nel film gente vestita come quelli di Star Trek, alieni tipo quelli di Alien, che però hanno gli stessi poteri del Predator, le astronavi stile Star Wars, tutto più di tutto mescolato insieme in maniera veramente caotica. Non si capisce assolutamente niente, a partire da dialoghi che sono assolutamente irrazionali, irrazionali e improvvisati, tra l'altro senza copione, battute proprio che non stanno in piedi, che non hanno una consecutio tempo, cioè tipo che so, salvati è tardi, ma in realtà tipo sono a 2 centimetri, c'è ancora tutto il tempo del mondo. Sì. Esattamente, oppure proprio discorsi che seguono altri discorsi senza un filologico, proprio. Che bello, è il festival del nonsense, fantastico. Ma la trama di questo film qual è? Se c'è, ovviamente, perché non bello, è... diciamo, si riesce a capire qualcosa, nel senso che c'è un avamposto stellare terrestre che viene attaccato da una forza aliena, da degli alieni. C'è un fuggi generale e ci sono alcuni diciamo uomini, soldati e scienziati che si rifugiano su una specie di astronave a forma di medusa. Poi si apre un varco temporale. Ma perché la forma di medusa è scomodissima anche da progettare, vabbè. Ma assolutamente, però poi è proprio completamente anti-ingegneristica. Sì, totale. È imbarazzante comunque. Esattamente. Poi praticamente si apre una specie di varco temporale. In cui praticamente poi diciamo. In cui diciamo questa astronave riesce a infilarsi. Che praticamente porta a delle coordinate galattiche che il professorone del film aveva trovato 6 anni prima su un meteorite che era caduto dal cielo sull'isola di Sumatra. Ma che culo! Fantastico, esatto. Fantastico. Praticamente ci si trova su un pianeta tutto ghiacciato, che però fa caldo, si può accendere il fuoco. E poi su questo pianeta c'è anche l'albero della conoscenza del bene e del male, custodito da una tribù di indiani che pratica snowboard. Poi arrivano anche gli alieni. Ma secondo me, secondo me la storia è nata proprio da un sogno dopo aver mangiato pollo e peperoni a sera prima, perché sembra uno di quei sogni incredibili. Esatto, oppure sì, il regista è semplicemente un genio e noi siamo siamo delle povere menti inferiori e non ci hanno capito. Senti, ma il bello è che poi praticamente in tutto questo guazzabuglio di cose arriva c'è una bambina che spunta fuori dentro questa astronave, c'era, non ti dicono perché, e poi viene posseduta da uno spirito strano, diventa blu e comincia a berciare, stanno arrivando, sai, con la voce camuffata tipo rapitore, stanno arrivando. Ma perché? Praticamente poi arriva una viene teletrasportato sull'astronave aliena uno dei piloti, che si trasforma in una specie di Hulk celeste con i capelli da cantante hair metal, che comincia a massacrare gli alieni a forza di bracciate e poi ti dà delle fiammate di metano sulle braccia, guarda. Ma non ha un senso di niente. No, no, assolutamente, c'è parole, cioè non ha alcun senso. Questo secondo me è un grandissimo capolavoro. Io credo che tra quelli che ci ha raccontato Marco sia quello veramente più insensato, almeno così a pelle. Assolutamente, ma probabilmente, se non ricordo male, avevo letto che questa era praticamente, doveva essere, diciamo, il pilota di una serie, no? Fallita, sì. Ovviamente. Sì, ma poi se uno legge il sottotitolo, sto vedendo la copertina di DVD, The End of Our World is the Beginning of Another. Ma mi sa che non è nato proprio un bel niente dopo, perché cioè credo sia morto tutto con Ice Planet. Ma sì, ma che poi il film ha anche un, diciamo, un finale un po' criptico, perché praticamente quelli che stanno arrivando in realtà sono già arrivano lì. Una specie di nebulosa di piastrine verdi che diciamo tra poi trasporta il pianeta di un'altra galassia per l'inizio di una nuova era. Comunque ama i colori il regista, ricordiamo il nome del regista, Winrich Kölbe o Kölbe, che dir si voglia. Senti, cosa ci consigli di accompagnare come gustoso snack alla visione di questo capolavoro? Io direi un gelato, Marco credo che confermerà. Potrebbe, no? Guarda, ci avevo pensato anch'io, ma in realtà visto che è il campione si parla di alieni, insomma di gente che diventa blu, c'è l'ottimo Puffo Marshmallows che rappresenta sicuramente il trash snack più adatto. Ovviamente. È un praticamente la consistenza e il sapore è quello dei marshmallows classici, però proprio a forma di puffo. Ah, quindi, a forma, diciamo, di puffo, pensavo il colore soltanto, fantastico. Per sfogare la rabbia e la frustrazione sui poveri puffi, mangiandoli. Esattamente. Diciamo, sono brutti questi marshmallow allora. Sono veramente bruttissime, penso nemmeno Gargamella li mangerebbe da quanto sono fantastico, brutti, insomma, fantastico. Va bene, Marco, il tempo stinge, tra 27 ore e 33 minuti a quanto pare il mondo finirà, alcuni dicono per qualcosa in più, in replica di meno. Per qualcuno ovviamente di meno, dovremmo togliere 4 ore, noi ti ringraziamo, se mai ci risentiremo o se ci vediamo nell'aldilà, sarà un piacere continuare insieme a guardare film brutti, sempre se credete nell'aldilà, grazie per essere stato con noi in questa stagione epica e ma casomai ci risentiamo nel 2013. E soprattutto, per chi ancora non ha fatto, insomma, quello che doveva fare prima della fine del mondo, vedete Ice Planet, perché è un ottimo modo per concludere. Ottimo modo perché è completamente insensato, quindi non capirete nulla quando finirà il mondo. Esatto. Noi consigliamo di vederlo proprio a cavallo della mezzanotte, magari sul finale criptico, ma che sta succedendo? E finisce tutto quanto. Marco, noi ti ringraziamo e ci risentiremo appunto, se possibile, se ci saremo nel 2013. E adesso ci ascoltiamo un gran pezzo, lo voglio dedicare a Cristina che ci sta ascoltando dal profondo nord Italia, Robert Palmer con Simply Irresistible. Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one dies in. This is for the folks. Come true. siamo tornati in diretta. Avevamo annunciato un altro pezzo, quello di Robert Palmer, ma Robert Palmer era in pensione, quindi vabbè. Stavo allora, guardando Ice Age. Assolutamente sì. Ice Age, vabbè, Ice Planet. Ice Age va bene pure. Sono le 20:32, per chi ci sta ascoltando di notte non sappiamo l'orario preciso perché ho visto che le volte non coincide. Sono le 2 e tanti saluti? No, tra 2 minuti saluteremo. Lui ci fa dei segni strani, il regista è un nuovo regista, l'abbiamo raccattato per strada e l'ho portato con me. Dobbiamo finire la nostra classifica. Assolutamente sì, siamo arrivati al 5° posto. Dei ricordiamo che oggetti inanimati con cui intratteniamo conversazioni, esatto. Al 5° posto il PC o la barra di download. Ti muovi? Ti muovi? Ti muovi? L'epoca d'oro delle chiacchierate furiose con la barra del download è stata quella del modem a 56k. L'avvento della DSL poi ha portato un nuovo amico da prendere a parole, il buffering dello streaming. Soprattutto è vero. Quando si guardano i porno. Assolutamente sì, tu ne guardi tanti. Andiamo alla numero 4, il navigatore della macchina. Se sbagliamo strada gli diamo la colpa, se non capiamo gli diamo la colpa, se parla troppo gli diamo la colpa, se non è aggiornato all'ultima rotonda gli diamo la colpa. Nell'albitacolo della macchina. Albitacolo, perché era di Alberto. Esatto. Giusto. Il guidatore ha bisogno di qualcuno con cui incazzarsi, qualcuno che non possa rispondere, il suo navigatore. Infatti io ho tolto la voce perché quando mi ha detto per la prima volta a 300 metri torna indietro, torna indietro, l'ho mandata in un certo paese. Andiamo alla numero 3, siamo sul podio, il motorino o l'automobile che non parte. Non puoi farmi questo, non ora. E poi giù con gli insulti. Eh sì, perché la matematica con cui i nostri mezzi si infortunano sembra studiata a tavolino per farci saltare i nervi. Il motorino si rompe sempre quando piove, giusto in tempo per prenderci acqua secchiate. La macchina spira nei pressi di un appuntamento a cui non possiamo mancare e i più pazienti sbottano e basta. Agli altri gli insulti. È successo anche a me, è successo anche a me. Non puoi essere solo tu il dislessico. Altri agli insulti aggiungono anche qualche calcio. Ovviamente tu sei studiata 20 volte nel frattempo che io sbagliavo e così tu sembri quello. Siamo bravo. Alla posizione numero 2, lo specchio. Avevo letto un'altra cosa. No, lo specchio. Quanti discorsi davanti allo specchio? Chi ci conosce meglio di lui? Lui che sperimenta tutti i nostri stati d'animo. Lui che ci ascolta parlare e vorrebbe solo dirci: stai in silenzio. Le chiacchierate migliori sono quelle motivazionali, quelli in cui a tu per tu con noi ci carichiamo. Are you talking to me? Andiamo alla posizione numero 1. Il regista ti faceva segno di andare vicino al microfono, ma tu non capivi. Non capisco niente. Attenzione. Io parlo con un oggetto inanimato. Esatto, la posizione numero, cioè, quindi non ha un'anima e tu non gli parli vicino. Ma alla posizione numero 1 della classifica dei 10 oggetti inanimati con cui intratteniamo conversazioni, abbiamo il telefono che squilla. Se squilla e non lo troviamo, impazziamo. Doppio dialogo. Al drin drin indemoniato rispondiamo in due tempi. Prima chiediamo nomi a lui direttamente: dove sei? Poi mettiamo: arrivo, arrivo, ora rispondo. Io potrei aggiungere in realtà che al telefono che squilla la stessa cosa è al citofono. Quando sì. Dici arrivo, arrivo, ma nessuno può sentirti. Solo che il citofono si sa dov'è. Esatto, però al contrario del telefono che si sposta. È soltanto la seconda parte. Questa era la classifica dei 10 oggetti inanimati con cui intratteniamo conversazioni. Quanto tempo abbiamo, regista? Niente. Zero? Allora dobbiamo per forza salutarci. Un po' di serietà, scusa. Hai un sottofondo triste, qualcosa di... Ma no, ma lascia. No, no, lascia, no, uno triste, uno... Bello. Ecco, su, quello va bene. Niente. Devi togliere. Sì, ma togli l'altro sottofondo. È stato bello stare con voi. Sappiamo che ci mancherete e noi speriamo di mancare anche a voi. Sono stati anni bellissimi, ma purtroppo i Maya hanno avuto la meglio e questa è la nostra ultima Maya Lata. Grazie per essere stati con noi, da Antonio, Andrea e Claudio, perché Alessandro si è già suicidato, sì. Non voleva vedere la fine del mondo. Andrea, vuoi dire qualcosa sì, per salutarli? Vorrei tanto porgere i miei saluti ad Alessandro dicendogli che lo troveremo più presto nell'aldilà. Sì. Che, lì insomma, ci rivedremo e continueremo sì, a fare radio insieme. Io non sono proprio tanto triste perché insomma morirà tanta altra gente, moriremo tutti, è la fine. Quindi se volete, non lo so, piangete, sì, scriveteci. Abbiamo un nuovo blog, seguiteci facebook.com/londa in paradiso. Sì, Afterlife, detta anche. Afterlife. Se volete aggiungeteci sempre su Facebook, non si sa mai. Dico, dateci tutti i vostri soldi. perché è sempre buono. Abbiamo bisogno. Noi vi daremo l'IBAN nella nostra pagina Facebook. Voi dateceli tutti. E se morite, insomma, meglio per voi. Non avete perso nulla. Se no, meglio per noi. Direi che possiamo salutarci e chiuderci con Caparezza, penso. Sì, sì, sì. Ovviamente ci chiudiamo con un po'. Ci chiudiamo nella bara. Insomma, sì. Vabbè, ringraziamo anche i due ragazzi che sono tornati direttamente dall'altro programma, da Music in Love. Niente, anche loro, insomma, ragazzi, addio. Addio. Ci rivedremo da qualche parte nel mondo. Comunque, grazie. Ma secondo me non è vero. Non è vero? Tu dici no, ma secondo me sì. Ma vediamo che ne dice Caparezza con la fine di Gaia. Ciao a tutti. Casa.